Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Sette otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo dal primo discorso di Ursula von der Leyen sullo stato dell'Unione Europea, in cui la von der Leyen, oltre a, diciamo, a un ragionamento di carattere complessivo, ha detto, insomma, che è un'occasione unica per l'Unione Europea e ha ribadito che la ricetta per rimettere in piedi l'Unione Europea dopo la pandemia è appunto assicurare un processo di integrazione comunitaria attraverso sanità, clima e investimenti nel digitale. La von der Leyen è sembrata anche abbastanza ottimista nel dire, insomma, le politiche saranno a sostegno dei vari paesi, e ricordando che il 37% del Recovery Fund deve essere utilizzato per il cosiddetto Green Deal, quindi per investimenti verdi che garantiscono la sostenibilità ambientale oltre che economica, il 20% per il digitale. Poi ha chiesto che gli investimenti siano precisi, quindi non arrivino solo dichiarazioni generiche, e per quello che riguarda altri elementi ha chiesto, ha auspicato che tutti nell'Unione Europea debbano avere un salario minimo, e costruire poi un'unione della sanità europea, quindi un'unione dei vari paesi nelle politiche sanitarie. E tra l'altro con il Presidente del Consiglio, ha detto da von der Leyen, Giuseppe Conte, la Presidenza italiana del G20, organizzeremo un vertice globale sulla sanità in Italia per dimostrare che l'Europa c'è per proteggere. È intervenuto poi anche il Presidente Sassoli, e quindi il Presidente del Parlamento Europeo, che ha ribadito l'importanza del passaggio della von der Leyen sul salario minimo, e poi ha ricordato come la bontà dei vari progetti che verranno presentati per il Recovery Fund verrà valutata sugli obiettivi comuni. Per quello che riguarda, da questo punto di vista, anche il recovery, nel frattempo, ieri sera, e qui veniamo all'Italia, il Presidente del Consiglio ha trasmesso un piano forse eccessivo, un documento di 38 pagine e 32 slides con le linee guida per la definizione del Piano Italiano di Ripresa e Resilienza, PNRR, che è quello che deve, il piano sostanzialmente di Recovery Plan, quello che deve poi essere mandato in Europa nel dettaglio a inizio gennaio, presentato alle Camere, discusso invece da qui a metà ottobre. Ora come ora, appunto, ci sono linee guida, entro gennaio devono arrivare i dettagli su questo. 5 sezioni, in una viene definito il contesto economico e sociale ed il piano di rilancio del governo, basato su 9 direttrici di intervento, e poi, insomma, la disponibilità a riferire in Parlamento. Citeremo anche le direttrici di intervento. Faccio notare che l'obiettivo finale è il raddoppio del PIL italiano, portandolo a una media europea dell'1,6%, e gli investimenti portandoli al 3% del PIL, nonché un tasso di disoccupazione, di occupazione, scusatemi, in aumento di 10 punti percentuali, e poi aumentare di un punto percentuale la spesa per ricerca e sviluppo. Ancora meno tasse su ceti medi e famiglie. Nelle linee guida è presente anche l'idea del salario minimo. La scuola, il cablaggio con fibra ottica delle infrastrutture scolastiche e universitarie, e più asili nido, anche a livello di nuovi asili nido. E poi missione equità sociale, dal Family Act all'IRPEF. Ne parleremo nel dettaglio, per quanto è possibile avere un dettaglio di questo. perché alcune linee guida sono ancora molto, molto generiche. Infine parleremo di un altro elemento che riguarda sempre il mondo delle imprese e sempre il modo per cercare di dare una mano dopo la crisi che si è scatenata con il Covid. Questa mattina è stato presentato Pari Passu, si chiama. È una misura per rafforzare il capitale delle piccole e medie imprese. Era già prevista dall'articolo 26 del decreto rilancio e varrà sugli aumenti di capitale effettuati entro il 31 dicembre, ma coprirà anche quelli effettuati già a partire da maggio. Che cosa prevede? Che le piccole e medie imprese che hanno avuto una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile, pari almeno al 33% rispetto all'anno prima, potranno, dopo l'entrata in vigore chiaramente del decreto rilancio, e che hanno deliberato un aumento di capitale dopo il decreto rilancio, quindi dopo il 19 maggio e entro il 31 dicembre, potranno avere un vantaggio. Quali sostanzialmente? Uno, un credito d'imposta pari al 20%. Delle persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti in denaro non oltre i 2 milioni di euro. L'altro, viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro gestito da Invitalia, finalizzato alla sottoscrizione entro il 31 dicembre di obbligazioni o titolo di debito subordinati emessi dalle società di capitali. Praticamente cosa succede? Con questa forma di coinvestimento lo Stato si impegna a sottoscrivere un debito subordinato emesso dall'impresa per un ammontare massimo pari al minore tra 3 volte l'aumento di capitale previsto, il 12,5% del fatturato. È un po' complicato dirla così, però in sostanza che cosa succede? Viene dato un credito d'imposta al 20% per conferimenti non oltre 2 milioni di euro. Il credito è concesso a condizione che l'aumento di capitale sia sottoscritto appunto entro il 31 dicembre e viene dato un cofinanziamento in una forma quasi equity e quindi di debito subordinato a cui possono accedere le imprese con le modalità che ho appena ricordato. Devono avere ricavi fra i 10 e i 50 milioni di euro, un numero di dipendenti inferiore a 250 milioni di euro per questa seconda parte. Ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Qualcuno mi accusa, visto che non c'è la costruzione del ponte diretto da Messina al sud, ringrazio a te il governo. Guardi, non decido io se c'è il ponte sullo stretto, ho detto solo che non mi sembra in questo momento una priorità, e visto che lei mi accusa, se ho ben capito, di essere poco interessato al sud, invece secondo me resta una priorità, e ho visto che è nel piano infrastrutturale, nel 130 opere, la Napoli-Bari come alta velocità. Citerò le varie direttrici di intervento da questo punto di vista, però attenzione, sono molto generiche. Le 9 direttrici riguardano un paese completamente digitale, un paese con infrastrutture sicure e efficienti, un paese più verde e sostenibile, un tessuto economico più competitivo e resiliente, un piano integrato di sostegno alle filiere produttive, una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese, maggiori investimenti in istruzione, formazione e ricerca, un'Italia più equa e inclusiva a livello sociale, territoriale e di genere, un ordinamento giuridico più moderno e efficiente. È ovvio che dette così siamo tutti d'accordo e non possiamo che sottoscrivere questi 9 punti. Il problema è che i 9 punti... come dire, vorrei vivere in una città a misura d'uomo, ma anche multiculturale, e in una casa. Cioè, è un desiderio, è un più che altro più che un desiderio, sono dei desiderata che tutti noi avremo. Dopodiché bisognerà capire, ripeto, come si attiva e si realizza un paese completamente digitale, come si realizza un paese con infrastrutture sicure e efficienti, come si realizza un paese più verde e sostenibile, è tutto, cioè, questo poi è il dettaglio. Sì, manca la pace del mondo, mi scrive un ascoltatore, ma vabbè, io non dico che non debbano esserci delle linee guida alte, appunto, poi però bisogna riempire di contenuti, perché bisognerà decidere sulle infrastrutture dove mettiamo i soldi prioritariamente, sul digitale come, dove li mettiamo, la pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese, bene, come lo realizzi, sicuramente non tenendo la pubblica amministrazione in smart working o lavoro a casa fino al 31 dicembre, come ha voluto il ministro Catalfo. A noi risulta che molti uffici della pubblica amministrazione siano paralizzati, non solo quelli giudiziari, anche gli archivi, i catasti. Ecco, allora, benissimo, se dai massimi sistemi devo scendere alla concretezza, poi sarà molto importante, su questo non faremo nessuno sconto, ve lo dico già, al governo capire come ottieni questo. Per esempio, la parte infrastrutturale, come si integra con le nell'Italia, disegno di legge Italia Veloce, come si integra con le 130 opere prioritarie? Vanno finanziate quali? Tutte subito? Come si e quanto finanzi la parte, diciamo, delle strutture sanitarie? Va bene, questo insomma per ora è più un tema da convegno, mettere queste voci, vogliamo tutti le cose che sono state elencate. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo adesso sulle altre notizie in breve. L'OCSE oggi diffonde nuove stime sull'andamento dell'economia a livello mondiale, meno 4,5% il PIL mondiale quest'anno, più 5% l'anno prossimo. La produzione globale comunque nel secondo trimestre è inferiore del 10% rispetto alla fine del 2019 e l'OCSE dice, insomma, il mondo sta scontando il più drammatico rallentamento economico dai tempi della seconda guerra mondiale. Per quello che riguarda l'Italia, fila meno 10,5% quest'anno, più 5,4% l'anno prossimo. Andando e restando, scusatemi, sulle notizie di carattere internazionale, secondo un'accusa molto molto forte, cioè il rapporto della Commissione Trasporti della Camera Americana, la Boeing avrebbe nascosto i difetti del design del 737 Max alle autorità, ricordati due incidenti gravissimi che sono avvenuti con il Boeing 737 Max, e avrebbe nascosto i difetti sia alle autorità che ai piloti mentre cercava la certificazione per far volare il suo nuovo velivolo. E tra l'altro la Commissione Trasporti accusa anche le autorità di essersi dimostrate più preoccupate a compiacere la Boeing che a esercitare l'appropriata supervisione. I due incidenti sono il risultato di una serie di assunzioni tecniche sbagliate da parte degli ingegneri di Boeing e di una mancanza di trasparenza da parte dei manager di Boeing e di una insufficiente supervisione da parte della Federal Aviation Commission. Insomma, ce n'è per tutti. Mi sembra che da questo rapporto a Boeing ne esca con le ossa rotte. Andiamo, per dir poco, in realtà, vabbè, sto zitto. Andiamo avanti. Confcommercio invece, veniamo all'Italia. Vedo molti messaggi sulle nuove direttrici del governo. Sì, vabbè, alla Catalano, sì, chiaramente Catalano lo capiamo solo se abbiamo più di 45 anni, però andiamo avanti. Confcommercio, allora, la Confcommercio si attende un rimbalzo del PIL forte nel terzo trimestre, con una crescita del 10% rispetto all'ultimo, però è una riduzione ancora del 9,5% rispetto all'anno prima. L'associazione però nota come ad agosto i consumi siano scesi dell'8,7%, con una situazione drammatica per i servizi ricreativi meno 61%, gli alberghi meno 35% e i pubblici esercizi meno 26%, e teme che nonostante il forte rimbalzo nel terzo trimestre molte imprese non verranno salvate del terziario dalla chiusura. Sentiamo su questo il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Per il terzo trimestre ci attendiamo un forte rimbalzo statistico, ma non ancora sufficiente per recuperare le perdite provocate dalla crisi Covid. Nel 2020, infatti, si prevede una caduta del PIL di oltre 9 punti percentuali. Per rafforzare la crescita è necessario utilizzare tutte le risorse europee e superare i problemi strutturali del Paese, senza dimenticare che la riforma fiscale mai avviata rimane una priorità. E sempre in tema di congiuntura, oggi l'Unione Petrolifera fa notare che nei primi 8 mesi del 2020 i consumi petroliferi italiani sono montati a 32 milioni di tonnellate, cioè meno 19% rispetto ai primi 8 mesi del 2019. La benzina ha fatto meno 24% come consumi, il gasolio d'autotrazione meno 20%, il gasolio venduto sulla rete meno 23%. E il decremento resta anche nel mese di agosto, meno 4,6% di consumi di carburante per autotrazione, quindi benzina e gasolio, a parità di giorni lavorativi. Quindi vuol dire che ad agosto, rispetto all'agosto del 2019, ancora un indicatore empirico come appunto il consumo di elettricità da un lato e il consumo di benzina dall'altro, perché ti dice quanto è ripartita l'attività economica, quanto gli italiani si sono spostati, quanto viene utilizzata la macchina. Ebbene, sarà l'effetto dello smart working, sarà l'effetto di quello che volete, sarà l'effetto che l'Italia era chiusa, ma ancora era chiusa, però non ad agosto. Fatto sta che ancora ad agosto c'è un meno 4,6%, tant'è che ho visto ieri la British Petroleum, se non ricordo male, stimare che il consumo di petrolio non tornerà più ai livelli pre-Covid. Adesso vediamo se questa stima verrà confermata, magari anche perché, aggiungo io, non solo perché la crisi si protrarrà, ma magari perché verranno utilizzate altre forme, no, di trazione rispetto al diesel, al gasolio e alla benzina, magari le auto elettriche. Ancora, per quello che riguarda il rapporto nel mondo bancario, c'è molta preoccupazione sul modo di calcolare i crediti deteriorati. Oggi c'è stato un incontro nel direttivo dell'ABI, è intervenuto anche il governatore della Banca d'Italia Visco, ha detto, insomma, Patuelli, che è presidente dell'ABI, ha detto: attenzione, l'arrivo delle risorse europee del Recovery Fund non è purtroppo imminente e occorre che la legge di bilancio 2021 sia anche orientata al sostegno dello sviluppo. E su questo ha chiesto Patuelli che venga rivista l'introduzione delle regole sui non performing loans, e quindi non deve essere una revisione traumatica e frettolosa, perché il passaggio dalle regole bancarie dell'emergenza Covid a quelle post pandemiche deve essere fatto in maniera graduale. La capacità delle banche italiane di affrontare shock avversi è significativamente aumentata. La portata di questa crisi, però, e qui bisogna sottolinearlo, potrebbe essere tale da richiedere qualche intervento di natura straordinaria. E in questo contesto si sta riaprendo il dibattito a livello europeo su iniziative volte a favorire l'istituzione o a migliorare il funzionamento di società specializzate nella gestione dei crediti deteriorati, le asset management companies, o volgarmente in linguaggio corrente, bad banks, ipotesi che considerano anche la partecipazione di investitori privati al capitale di queste società, vanno viste con favore. Tra le diverse possibilità di intervento vi è l'introduzione di uno schema armonizzato che consenta ai singoli stati di operare con società nazionali in deroga ad alcuni aspetti della regolamentazione vigente, ad esempio non prevedendo l'attivazione automatica del burden sharing nel caso in cui i crediti vengano ceduti al loro effettivo valore economico. E la bad bank in questione o l'asset management company abbia adeguate prospettive di profitto. E questo appunto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Andiamo ancora a due notizie in breve. Qualcuno mi sta chiedendo di Di Maio questa mattina, 24 mattina, lo ascolteremo dopo. Per quello che riguarda i temi economici, ha detto: parlare del MES accentua le divisioni nella maggioranza. Che facciamo, ministro Di Maio? Non ne parliamo proprio, così non creiamo divisioni nella maggioranza. Ma se c'è un tema, va affrontato guardando anche bene, esattamente bene, e non in maniera ideologica, non con l'occhiale ideologico. Non è che si mette la roba sotto il tappeto. Se una coppia ha un problema, è meglio affrontarlo, oppure non ne parliamo perché si aumentano le tensioni nella coppia. Tra l'altro faccio notare che oggi Dino Pesole su Sole 24 Ore ha calcolato che con l'utilizzo combinato di Recovery Fund, MES e SURE, SURE è quello per le politiche per l'occupazione, quindi cassa integrazione da noi, lo Stato italiano risparmierebbe mediamente in 5 anni 11 miliardi di minori tassi di interesse, 2 miliardi e mezzo dal MES, 2 da SURE e 6 e mezzo dal Recovery, solo per la parte di Recovery che è relativa ai prestiti. Sappiamo che il Recovery Fund per quello che riguarda l'Italia ha più o meno 81 miliardi di trasferimenti e 127 miliardi di prestiti agevolati. Dunque invece la buona notizia oggi riguarda il mondo dei riders e quindi chi fa cibo, a consegna del cibo, i delivery cosiddetti, perché per la prima volta in Europa c'è stato i vari soggetti, mi riferisco a Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food, Uber Eats e il sindacato UGL hanno firmato un contratto collettivo nazionale che aumenta le tutele dei rider. C'è stato, per rappresentare il mondo dei rider, viene costituita un'organizzazione rappresentativa unitaria denominata UGL Riders. È la prima all'Italia comunque che ha un contratto che prevede diritti e tutele per i riders come lavoratori autonomi. Sentiamo al microfono la nostra Anna Marino, Elisa Pagliarini, che è General Manager di Glovo Italia, ma anche vicepresidente di Asso Delivery, quindi l'associazione che riunisce tutti quelli che svolgono poi consegne, le società che si occupano di svolgere consegne a domicilio. È un accordo su cui abbiamo lavorato a lungo, ha lavorato tanto il Ministero che aveva aperto il primo tavolo indietro nel 2018. Il primo contratto collettivo a livello in realtà europeo che regola il lavoro dei rider nel comparto del food delivery stabilisce un quadro di compensi, tutele e diritti che sono frutto del confronto tra Asso Delivery e UGL. C'è un cambiamento forte, quali richieste sono state accolte e da quando sarà operativo? Sarà, diciamo, attivo dai primi di novembre, come la legge prevede. Quindi sarà applicabile a tutti? E a tutti i rider che lavorano sul territorio italiano. Nel dettaglio, quali sono le tutele che si sono aggiunte grazie a questo accordo? Ma tra le più importanti cito il compenso minimo di 10 euro per ora lavorata, indennità integrative da 10 a 20% in condizioni di maltempo, festività e lavoro notturno, un incentivo di 7 euro per i primi mesi di lancio di nuove città, sistemi premiali di 600 euro ogni 2000 consegne, la fornitura gratuita anche di dispositivi di sicurezza, un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, INAIL e danni a cose terzi, che sarà un'assicurazione invece privata, e poi corsi di formazione su sicurezza stradale e trasporto alimentare, divieto di discriminazione, pari opportunità e trasparenza del ranking e infine contrasto al caporalato e diritti sindacali. Questi sono i principali punti che si suddividono in compensi, tutele e diritti. Certo, potrebbe essere un esempio replicabile. Che giro di affari c'è e il mercato appunto quali numeri ha? Secondo il Politecnico di Milano circa 750 milioni di euro di giro d'affari nel 2020. In generale il comparto riesce a dare tramite Asso Delivery, quindi il comparto rappresentato da Asso Delivery, riesce a dare lavoro a circa 500 addetti e almeno 30.000 rider e ha sostenuto all'interno della filiera, quindi fatta tra ristoranti, fornitori e quant'altro, ulteriori 30.000 occupati all'interno di tutto il comparto. Allora, bene che vi sia un contratto, anche perché si rischiava veramente il caporalato, lo sfruttamento, l'abbiamo visto, ognuno di noi può forse testimoniare il rischio che correva il settore delle consegne a domicilio. È giusta anche il riferimento al sostegno che dà il mondo della ristorazione. Parliamoci chiaro, non solo nella fase, diciamo, 2 del lockdown, quando si poteva fare asporto, ma anche delivery, anche nella fase 1 si poteva fare delivery, ma anche nelle fasi successive. È chiaro che molti potenziali clienti timorosi di andare in un ristorante, magari in un luogo chiuso, preferiscono tuttora o hanno preferito avere una consegna a domicilio. Questo sarà ancora più importante se a novembre, dicembre, dubito che soprattutto nel centro-nord del paese potremo mangiare all'aperto e vi potrebbero essere resistenze, oltre che speriamo di no, ma insomma nuove tensioni sulla diffusione dei contagi, e quindi è importante che il ristorante poi si possa appoggiare a una rete per consegnare il cibo a domicilio qualora il cliente lo chiedesse, per dare appunto una valvola di sfogo anche al ristorante, che sicuramente non potrà beneficiare più dei tavolini all'aperto, per capirci. Una cosa però la voglio dire anche a So Delivery, perfetto, potete, e va benissimo le tutele, ci mancherebbe, le tutele per questi lavoratori, potete anche, diciamo, fare un minimo di formazione su come ci si muove in un centro urbano, perché ho capito che il governo ha fatto entrare anche la bici in contromano dalle misure del DL semplificazioni, però onestamente non solo i riders, ma a maggior ragione i riders hanno un concetto strano del codice della strada, lo posso dire? Allora magari responsabilizzarli anche che non si può passare col rosso, tagliare di qua di là, perché sono sempre bici pure quelle, ho capito la fretta della consegna, ma voglio dire, attenzione, perché su questo devo dire che è come se non vi fosse stata una grande formazione da parte dei riders, e vabbè. Allora, leggo assieme a voi una notizia appena battuta, dunque domani le linee guida dell'Unione Europea sul Recovery Fund, quindi domani la Commissione Europea pubblicherà le linee guida sul Recovery che prevederanno aumentare l'efficienza energetica degli edifici, costruire colonnine per le auto elettriche, incentivare la produzione di rinnovabili, ma anche la rete 5G, la banda larga, le competenze digitali. Queste alcune delle linee guida a cui dovranno uniformarsi i paesi, e poi la Commissione fornirà anche agli Stati un modello uguale per tutti dove indicare i progetti e le riforme. Immagino una cosa quasi da compilare. Questo per aiutare i governi a mettere a punto i propri piani attraverso una guida precisa che non darà troppe istruzioni, ma fornirà qualche esempio e soprattutto chiarirà quali criteri verranno utilizzati per valutare i piani, che cosa si intende per riforme strutturali e per investimenti digitali e verdi. Io penso che sia cosa buona e giusta, i soldi sono europei e posso dirla tutta. Questo diventa anche una garanzia anche per noi, che magari il governo italiano non pensi di poter utilizzare criteri troppo labili, categorie troppo labili sotto la voce green, verde, digitale e quant'altro. Allora, alla luce di questo, primo discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, ne parliamo fra qualche minuto dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp, ovviamente sarà nostro ospite anche la mitica. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation, sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. People want to move out of this corona world. Le persone vogliono uscire da questo mondo del coronavirus, da questa fragilità, fuori da questa incertezza. Sono pronte per un cambiamento e sono pronte ad andare avanti. Questo è il momento per l'Europa per allontanarsi da questa fragilità e verso una nuova vitalità. Towards a new vitality. Possiamo auspicare che l'economia si riprenda dopo una caduta del PIL del 12%, ma il virus permane ancora, come l'incertezza qui in Europa e in tutto il mondo. Quindi questo non è assolutamente il momento di far mancare il supporto. L'economia necessita di una politica di continuo sostegno. Occorre un equilibrio fra la garanzia di sostegno finanziario e la sostenibilità dei bilanci. And ensuring fiscal sustainability. But the mission of the European Green Deal. La missione del Green Deal europeo comprende molto più che un taglio delle emissioni. Questo è importante. Riguarda il produrre sistematiche modernizzazioni nell'economia, nella società e nelle industrie. Si tratta di creare un mondo più forte in cui vivere. Riguardo i nostri consumi, le nostre materie prime, energia, acqua, cibo, non è più sostenibile. Dobbiamo cambiare la nostra natura, come produciamo e come consumiamo, come viviamo e come lavoriamo, come mangiamo, viaggiamo e trasportiamo. Noi affronteremo ogni cosa, dagli agenti chimici fino alla deforestazione e all'inquinamento. Questo è il piano per il giusto recovery. È un piano di investimento per l'Europa. È così che Next Generation EU farà davvero la differenza. In primo luogo, il 37% di Next Generation EU sarà speso per i nostri obiettivi del Green Deal europeo. On our European Green Deal objectives. Allora, questi alcuni dei passaggi a nostro avviso salienti del primo discorso da presidente di Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione all'Eurocamera a Bruxelles. Dicevo che c'è anche la mitica Adriana Ceretelli, buonasera. Buonasera a tutti. Dunque, von der Leyen poi ha detto il 20% del recovery sarà per il digitale, appunto il 37% per il Green Deal. Gli investimenti devono essere precisi, non negozieremo sullo Stato di diritto, e poi ha chiesto che arrivi in tutti i paesi dell'Unione Europea il salario minimo e l'Unione della Sanità, aggiungendo poi che con la presidenza italiana del G20 verrà organizzato un vertice globale sulla sanità in Italia per dimostrare che l'Europa c'è per proteggere. Conte ha risposto: felice di ospitare il Global Summit sul Costruiamo il Futuro Assieme. Dunque, molti hanno sottolineato il passaggio sul salario minimo e anche i dettagli su come spendere i soldi del Recovery Fund. Poi ricordavo che poco fa le agenzie hanno battuto che domani arriveranno le linee guida dell'Unione Europea. Vorrei un tuo primo commento generale, Adriana. Ma è sicuramente un discorso positivo, un discorso dove c'è la voglia, diciamo, di rilanciare l'Europa dopo il vertice che ha alla fine di luglio approvato l'idea di questo Recovery Fund, che è sicuramente una rivoluzione perché mette il debito in comune, eccetera. Direi che è un discorso anche abbastanza potente. Dopodiché è anche un po' enciclopedico, nel senso che la von der Leyen ha cercato di tracciare un quadro generale dove ha messo anche, per esempio, la necessità di una politica europea, una politica estera europea, dove si passa addirittura dal voto all'unanimità al voto a maggioranza. Tutto questo naturalmente pensando alla Turchia, pensando alla Bielorussia, alla Russia, a tutte le partite aperte che si stanno rovesciando sull'Europa, Cina compresa, e che quindi rischiano in un momento di debolezza interna con questa recessione, almeno 12%, ha ricordato, che la indebolisce, tutto questo appunto rischia di indebolire ulteriormente anche l'immagine stessa, il peso specifico dell'Europa nel mondo, che già non è, diciamo, molto brillante. Però, scusami, prego. No, detto questo, ci sono anche delle cose molto concrete. È anche un discorso pragmatico dove, come tu prima ricordavi, si parla di investimenti 37% nell'economia verde, anche se già, per esempio, l'industria europea comincia, diciamo, a dire: stiamo attenti, bilanciamo bene gli interventi perché abbiamo dei problemi di rilancio della produzione, rilancio dell'economia, e quindi se ci carichiamo di troppi costi, per esempio proprio con la Cina, non ci si intende per ora sulla condivisione di questa sfida, cioè tutto questo può alla fine danneggiare l'industria invece che potenziarla. Detto questo, per esempio la matrice degli investimenti, che è una potente, secondo i calcoli della Commissione dovrebbe potere aumentare il PIL europeo dell'1,75% quest'anno e il prossimo, e dal 24 2,25%. Se così fosse, se cioè la rivoluzione digitale e verde dovesse funzionare, e per esempio questa nuova sovranità sul mercato unico e sull'industria che la stessa von der Leyen, insomma, promuove, per esempio con il rimpatrio di certe produzioni, a cominciare da quella sanitaria, no? La creazione per esempio di un'agenzia europea biomedica, eccetera, per prevenire questi tipi di epidemie nel futuro e comunque darsi i mezzi per affrontarle. Sono tutte cose che danno l'idea di una volontà rifondatrice dell'Europa. Da qui a dire che ci si riuscirà bisognerà vedere. Beh, almeno diciamo che dopo anni dice, siamo stati molto divisi all'inizio della pandemia e continuiamo a essere divisi, diceva, in politica estera come nella stessa politica economica, insomma, no, sappiamo bene quali sono le posizioni dei paesi del nord e del sud dell'Europa. D'altra parte, nel momento in cui lei dice investimenti, crescita, eccetera, rivoluzione produttiva, dice anche noi daremo delle garanzie di sostegno alle economie, ma ci vorrà la stabilità finanziaria. E lì c'è sempre questa partita sullo sfondo che arriverà, che non arriverà subito, ma arriverà per un paese come il nostro, con l'iperdebito che continua a crescere. Abbiamo visto gli ultimi dati della Banca d'Italia. Quindi, cioè, è una partita importante quella che si gioca, ma molto complicata. Complicata, sì, diciamo, per guardare anche la bottiglia e il bicchiere mezzo pieno, va detto che noi venivamo pre-Covid da un decennio di immobilismo totale europeo, in cui l'unica cosa che contava era il deficit sotto il 3%, il patto di stabilità, il fiscal compact, tutta questa bella roba da ragionieri, col massimo rispetto per i ragionieri veri, ma non da ragionieri della politica. E vedere che comunque ci si pone degli obiettivi un po' più alti è comunque cosa buona e giusta, almeno a me fa contento. Poi vedremo se questi obiettivi verranno raggiunti. Il presidente del Parlamento Europeo, Sassoli, commentando il discorso della von der Leyen, ha fatto notare due aspetti. Uno, il tema del salario minimo, che la von der Leyen ha citato più volte, e poi insomma ha ricordato che insomma, in questo momento, per uscire dalla crisi che si è generata col Covid, c'è bisogno di più Europa. Abbiamo bisogno dell'Europa, questo è il messaggio di oggi dalla Commissione ma anche dal Parlamento europeo, perché le sfide non si fermano con il Covid. Certo, siamo ancora nell'emergenza, ma abbiamo capito che i fenomeni globali possono entrarti in casa senza bussare. Noi dobbiamo essere pronti, nessuno può reagire da solo, nessuno può dare risposte da solo, e questo anno e i passaggi che questo anno hanno caratterizzato la vita dell'Unione vanno in questa forte direzione di grande consapevolezza. È molto importante il passaggio che è stato avanzato di una proposta sul salario minimo da introdurre nella contrattazione o per legge, che possa consentire standard di vita migliori e soprattutto posti di lavoro più forti, più robusti. Dunque, ho ancora due domande per te, Adriana. La prima riguarda lo specifico del recovery. Tu ricordavi che la von der Leyen è entrata anche in dettagli più concreti: il 37% per la parte di economia verde sostenibile, il 20% per il digitale. Dicevamo appunto che domani arriveranno le indicazioni, anche con esempi concreti da quello che abbiamo capito, e poi la Commissione fornirà agli Stati un modello uguale per tutti dove indicare i progetti di riforme, come a dire: fate i bravi, compilate un modulo uguale per tutti. Ma io lo ritengo un elemento positivo questo, in modo che ognuno non arrivi con le proposte più disparate, perché il verde è verde. Poi esistono anche casi di daltonici in cui pensano che un investimento di un certo tipo possa essere verde. La tua sensazione è che la Commissione eserciterà un controllo, non voglio dire da maestra, ma insomma un controllo severo sui piani? La mia sensazione è sicuramente quella, nel senso che non bisogna mai dimenticare che questi soldi ci sono, ci verranno dati, ma ci saranno i falchi del nord che saranno appunto come dei falchi a controllare che non vengano sprecati, oppure che si trasformino in un debito, i famosi trasferimenti di debito, no? Quelli che loro temono, soprattutto da paesi indebitati come il nostro. E quindi credo che sì, che il giudizio sarà molto attento, e comunque quello della Commissione sarà il primo, ma poi ci sarà il giudizio degli Stati membri. perché non ci dimentichiamo di quello. È chiaro che la formula raggiunta nel vertice è una formula che non dà l'ultima parola proprio agli stati, però sarebbe ingenuo immaginare che non ci fosse comunque il fiato sul collo della Commissione a comportarsi in modo tale che non ci siano, diciamo, delle partite oscure da giocare o comunque delle partite pasticciate. Sicuramente ci vogliono progetti chiari, ben inquadrati, dentro alle ambizioni europee che tra l'altro condividiamo, perché chi potrebbe non condividere, no? Soprattutto la conversione, la rivoluzione digitale. Ci sono tra l'altro 8 miliardi da dedicare alla ricerca sui supercomputer, ma ci sono molte cose importanti, e la grande sfida è quella proprio di saltare su queste opportunità, su questo autobus che sta passando e che è un autobus insperato, e soprattutto per un paese come il nostro. Certo, non bisogna andare lì con un'enciclopedia di progetti, bisogna neanche il Bignami, perché l'enciclopedia sarebbe troppo, ma quello che ho letto per ora siamo le buone intenzioni. Va bene, adesso non voglio, lo ricorderò dopo, facciamo la seconda mezz'ora proprio sul recovery plan, però ripeto, manca la ricerca dell'efficacia, l'amore eterno, e ci siamo come indicazioni. Un'ultima domanda invece, anzi due rapidissime. La prima, tu hai già la sensazione che vi sia che l'Italia venga guardata come un osservato speciale, oppure, visto che tutti i paesi devono ancora approntare i dettagli, la Francia forse si è mossa per prima, diciamo ancora presto per dire se il governo italiano è stato troppo generico o troppo inclusivo in progetti che non rientrano? No, io credo che l'Italia sia un sorvegliato speciale, ma non perché ci vogliono male, ma perché il nostro debito continua a salire a rotta di collo, e questo spaventa i nostri partner, e dovrebbe spaventare anche gli italiani, per la verità. Sì. Io sono spaventata. Ma, per cui siamo sicuramente un sorvegliato speciale. Cioè, tutto questo, la generosità con la quale ci hanno, diciamo, dato questa opportunità di usare questi fondi, dipende proprio dal fatto che è un salvataggio, no, per i paesi, ma soprattutto per un paese come l'Italia, che è stata sorpresa dal Covid, diciamo colpita molto più di altri, ma al tempo stesso con sulle spalle un fardello enorme di debito e la crescita peggiore dell'Unione Europea. Perché dici peggiore? Io ho visto pre-Covid, dici? Pre-Covid, no. Voglio dire, no, perché nel crollo del PIL facciamo meglio di Francia. No, adesso in Spagna, ultimamente okay. No, la Francia è messa peggio. No, io dico, sai, bisogna guardare anche le cose nella prospettiva, insomma, noi già da 20 anni che non cresciamo, e purtroppo quelle famose riforme che non abbiamo fatto, eccetera, pesano. Adesso bisogna fare tutto e presto. Noi siamo bravissimi a fare tutto e presto quando ci mettiamo. Certo. Però bisogna mettersi, e bisogna soprattutto avere un progetto chiaro di quello che vogliamo fare, e non mettere tutto dentro, no? Questo è il punto, e non soprattutto fare il piacere all'amico dell'amico, insomma, le solite cose. No, ma anche ai singoli settori, lo dico con molta chiarezza. Sì, cioè, sì, insomma, certo. Io continuo a ripetere, mi dispiace, ma alcuni settori andranno scontentati, non si può avere tutto, non puoi fare felici tutti se devi scegliere delle direttrici. Ultima domanda invece, che non riguarda il recovery di cui torneremo a parlare, ma è la partita economica più grossa che io ricordo degli ultimi tempi, quindi lo dico ad alcuni ascoltatori, preparatevi che ne parleremo, non dico tutti i giorni ma quasi, perché è la partita non solo più grossa dal punto di vista numerico ma anche cruciale e spartiacque per capire se da questo Covid, con tutti i danni che ha fatto alle persone e anche all'economia, potremmo avere una forma di vantaggio indiretto, fare le cose che abbiamo fatto, oppure resteremo anche in questo caso in mezzo al guado o al guano. L'ultima domanda riguardava la Brexit. Ho visto invece una von der Leyen molto molto scettica, ha detto l'intesa, ogni giorno che passa la possibilità di un accordo si allontana sempre di più, non abbiamo avuto i risultati sperati, sembrava quasi un de profundis. Beh, sai, da una parte, se tu lo guardi in modo razionale, tu diresti che stiamo andando al non accordo. Ma essendo Boris Johnson un personaggio molto particolare e imprevedibile, a me, io ho sempre la sensazione che lui arrivi fino all'orlo del precipizio per poi fare l'accordo, perché non è nel suo interesse non farlo. Ecco, io non riesco a capire quale sia il suo interesse di fare un accordo che, diciamo, rovina la reputazione internazionale della Gran Bretagna dal punto di vista della sua affidabilità politico-negoziale, eccetera. Rovina, come dire, un rapporto con l'Europa che, bene o male, è il continente della porta accanto, quindi con il quale ha... È chiaro che poi negli anni probabilmente cambieranno anche i flussi commerciali, ma oggi come oggi, certo, sono dei flussi. Oggi hanno fatto a Dover una prova fingendo di rimettere le dogane. È successo un putiferio, sì. Si è bloccato il traffico, non si sa per quanti chilometri, tutta la mattina non c'è stato modo di muoversi. E tutte queste cose, sì, concrete, secondo me, faranno ragionare Boris Johnson. Quindi tu resti ottimista anche su un accordo? Non credo in un buon accordo. Ma però che ci sarà comunque un accordo. Adriana, grazie, devo lasciare la linea al GR24, poi torniamo in diretta per parlare di Recovery Fund. Grazie ad Adriana Ceretelli, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da... GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. State ascoltando un programma offerto da San Marco Informatica, consulenza per la digital transformation. sanmarcoinformatica.com. Focus Economia. Minuti. Dunque, si chiama Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR. E le linee guida sono disponibili, sono scaricabili dal PDF, sono 38 pagine e 32 slides. Le linee guida per la definizione del Piano Italiano di Ripresa e Resilienza per accedere ai fondi previsti dal Recovery. Per la struttura definitiva, lo dico già, bisognerà aspettare gennaio, perché solo allora potrebbe finire il lavoro attuativo sui regolamenti comunitari, che sono indispensabili assieme alle ratifiche parlamentari per accendere davvero il motore del recovery plan, cioè del piano da presentare. Adesso le prossime mosse sono queste. Il governo presenterà, dopo questa architettura generale, il 27 settembre alle Camere i numeri con la distribuzione dei fondi nei diversi settori, quelli che noi chiediamo, poi bisogna vedere se ce li danno, nella nota di aggiornamento al DEF. A ottobre deve essere pronta l'impalcatura generale, e entro il 15 ottobre, in cui l'esecutivo deve mandare alla Commissione Europea il documento programmatico di bilancio, quello che poi diventerà anche la legge di bilancio. Che cosa si legge in questa linee guida? Quindi linee guida, poi i numeri e poi l'impalcatura generale, e poi a gennaio i dettagli alla luce anche dei regolamenti comunitari. Si legge sostanzialmente che il piano di rilancio del governo è costruito intorno a tre linee strategiche. Una riguarda la modernizzazione del paese, quindi promuovere la ricerca, utilizzare le tecnologie disponibili, aumentare la produttività dell'economia, modernizzare tutto l'impianto produttivo del paese a partire dalla pubblica amministrazione efficiente, digitalizzata, ben organizzata e sburocratizzata veramente a servizio del cittadino. Questa è la prima linea strategica. Poi c'è la transizione ecologica, e quindi sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta, ridurre drasticamente le emissioni di gas clima alteranti in linea con gli obiettivi del Green Deal, l'efficienza energetica e migliorare l'efficienza energetica delle filiere produttive, degli insediamenti civili, degli edifici pubblici e la qualità dell'aria nei centri urbani e nelle acque interne marine. Faccio un esempio su questo: è chiaro che se devi rifinanziare l'eco bonus lo fai entrare appunto nella parte di verso la transizione ecologica. E poi agricoltura sostenibile a partire dal mezzogiorno. Vabbè. L'Italia poi sul lato dell'offerta deve diventare produttrice di beni e servizi coerenti con la transizione ecologica. e investire nella bellezza dell'Italia. Tutelare quindi di più l'immenso patrimonio artistico, culturale e naturale. Terza linea strategica, l'inclusione sociale, ridurre le disuguaglianze, la povertà e i divari, quindi garantire un livello più uniforme di accesso all'istruzione e alla cultura, favorire l'inclusione, ridurre il gap infrastrutturale, quello occupazionale, nonché l'accesso ai servizi pubblici e la realizzazione della parità di genere. Per realizzare queste tre linee strategiche, quindi modernizzazione del paese, transizione ecologica, inclusione sociale, vi saranno 9 linee di intervento. La prima, un paese completamente digitale. La seconda, un paese con infrastrutture sicure e efficienti. La terza, un paese più verde e sostenibile. Quarta, un tessuto economico più competitivo e resiliente. Tutti parlano di resilienza, ormai va di moda. Comunque, quinto, un piano integrato di sostegno alle filiere produttive. Sesto, una pubblica amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese. Settimo, maggiori investimenti in istruzione, formazione e ricerca. Ottavo, un'Italia più equa e inclusiva a livello sociale, territoriale e di genere. Nono, un ordinamento giuridico più moderno e efficiente. Qui dentro ci sono sia le riforme che invece gli interventi. Faccio notare che in queste grandi categorie manca una voce specifica sugli investimenti infrastrutturali, cioè la si desume dall'inclusione sociale, ridurre le disparità, anche il gap infrastrutturale, però invece io ritengo che oltre a tutto un insieme di incentivi per il verde, proprio la parte infrastrutturale con le opere, le 130 opere prioritarie nel progetto Italia Veloce, quelle da commissariare, andrebbero messe in maggiore evidenza. Comunque sono un po' dibattuto, perché da un lato è chiaro che letta così è un libro di grandi intenzioni, e vengono citati anche il rapporto di Vittorio Colao, quindi il comitato di esperti in materia economica coordinato da Vittorio Colao, ed è chiaro che dette così siamo tutti d'accordo, cioè chi può essere contrario a un piano integrato di sostegno alle filiere produttive o a un paese più verde e sostenibile o a maggiori investimenti in istruzione, formazione e ricerca. Quindi sono dibattuto, perché da un lato, quando è un piano così delle linee guida, è difficile anche criticarlo. Dall'altro però non vedo tutti questi elementi di concretezza, perché se a questi 9 punti aggiungiamo anche la pace nel mondo e il diritto a una vita felice, una donna, un uomo che ti ama, insomma ci siamo sui desiderata. Professor Daveri, direttore del Master Full Time MBA della SDA Bocconi, buonasera innanzitutto. Buonasera. Allora, condivide magari no questa mia così difficoltà, perché da un lato è difficile criticare quando si è ancora le linee guida, dall'altro però è anche difficile analizzare delle linee guida quando sono così generiche. Beh, certamente siamo forse a una fase 1 a cui dovrà seguire rapidamente, il più possibile almeno, una fase 2 che sarà la precisazione degli obiettivi che sono fattibili e entro quale periodo di tempo. Ecco, senza quello che era un po' la struttura che il piano Colao aveva. Ogni scheda del piano Colao, venivano riportate nelle appendici, erano delle cose un po' noiosette, però in 120 pagine c'era scritto: facciamo questo piano per, non so, ridurre la durata dei processi civili, qual è il piano, qual è il problema, qual è l'intervento specifico, entro quanto tempo possiamo farlo, entro 3 mesi, entro 6 mesi, entro 2 anni. Per ora questo non c'è, forse useranno il piano Colao anche per poter capire come fare, però senza di questo è una lista di buone intenzioni che abbiamo, credo, un po' già letto nei decenni scorsi, e però molti dei problemi strutturali che sono descritti nel documento ce li abbiamo ancora tutti lì. Ecco, quindi un po' di cautela secondo me è d'obbligo. No, anche perché sulla pubblica amministrazione, per esempio, devi anche chiarire bene come fai a rendere la pubblica amministrazione più efficiente. Stabilisci criteri meritocratici all'interno della pubblica amministrazione, ti scontri con i sindacati, decidi, non so, perché poi tutto passa, dai maggiore autonomia ai dirigenti, penso anche ai dirigenti scolastici, cioè poi alla fine, per portare a concretezza sta roba, devi anche fare scelte dolorose, perché se poi vuoi far tutto con il plauso dei sindacati, a mio avviso nella pubblica amministrazione non riformi quasi nulla, perché poi sappiamo che ci sono opposizioni. Si vogliono introdurre elementi premianti, ma anche disincentivanti nella pubblica amministrazione più forti, maggiore responsabilità nei responsabili di dipartimento sulla produttività dei dipartimenti stessi. Non so, perché poi bisogna andare proprio nel concreto. Anche sul documento in tutto io ho detto che è di 38 pagine, in realtà è di 72 pagine ed è una versione estesa di quello che è già approvato la settimana scorsa dal CAI, il Comitato per gli Affari Europei. Gli obiettivi generali, come ricordavo, restano arrivare a un livello di crescita, raddoppiare la media della crescita italiana dallo 0,8 all'1,6%, aumentare gli investimenti portandoli al 3% del PIL, conseguire un aumento del tasso di occupazione di 10 punti percentuali, portare la spesa per ricerca e sviluppo al 2,1%. Restano anche le macro aree di intervento, qui che io inizio un po' a incasinarmi, ci sono 3 linee strategiche, 9 linee di intervento, però che in realtà vengono un po', poi ci sono le macro aree, appunto digitalizzazione e innovazione, una voce a cui si aggiunge anche la competitività del sistema produttivo, poi rivoluzione verde, infrastrutture per la mobilità, equità sociale, salute, resta anche istruzione e formazione a cui si aggiungono ricerca e cultura, e poi un'attenzione sull'equità sociale di genere e territoriale, con percorso di formazione giovanile, occupabilità e autoimprenditorialità a favore delle donne. Resta il fatto che la valanga di progetti che abbiamo raccontato, 557, che valgono 3 volte il recovery, 677 miliardi, andranno scremati. Ora, se vogliamo iniziare a dare qualche indicazione al governo su come scremare, le chiederò un aiuto dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Focus Economia. Dicevamo, è sbagliato criticare a priori delle linee guida che sono condivisibili, giù e quindi con le linee guida, i 3 obiettivi, le linee strategiche, le 9 linee di intervento, le 6 macro aree, già ci sto capendo sempre meno, però sbagliato criticare quando sono linee guida, giusto però chiedere con forza che venga spiegato il come, cioè il modello francese, il recovery plan francese da Veri, da quello che abbiamo visto, entra anche molto nel dettaglio sul come. Non vorrei che noi restassimo sempre molto bravi in orale, poi sullo scritto iniziano i problemi, perché poi sul come dovrei dire, non so, prendi le 130 opere definite prioritarie, secondo me solo per finanziare quelle devi iniziare a fare una opere infrastrutturali, deve iniziare a fare una selezione, la digitalizzazione del paese, chiarito cosa capiterà a Open Fiber, poi devi iniziare a dire bene come si interviene, con che, poi non parlo dell'IRPEF e del resto, ma parlo solo degli impianti generali, anche sul green, poi devi iniziare a dire dove arriveranno le agevolazioni e gli incentivi su questo, quali consigli si sente di dare al governo, che comunque deve entro gennaio entrare tecnicamente il più possibile in tutti i dettagli. Io partirei da un principio, che non ci arriveranno tutti gli anni tutti questi soldi, o tutti i decenni tutti questi soldi, cioè è un'occasione irripetibile. Allora, quando si ha un'occasione irripetibile bisogna fare delle cose che normalmente non si fanno, quindi non si può ridurre di 2 punti un'aliquota d'imposta, queste sono delle cose che si possono fare anno per anno. Quello che si deve fare è pensare per esempio alla digitalizzazione del Sud Italia, che serve a tante cose, perché altrimenti quando i ragazzi del Sud vanno online non imparano niente, perché la ragione di base è che non hanno accesso alle lezioni che vengono predisposte anche per loro. Quindi una delle priorità che secondo me bisognerebbe indicare con forza è quella relativa alle reti. La rete digitale, che serve appunto prima di tutto a consentire l'attuazione di un principio costituzionale fondamentale, quello dell'accesso all'istruzione. Secondo, le infrastrutture che servono per il trasporto urbano e extraurbano, quindi le ferrovie, appunto quelle, le opere che citava prima, ma anche quelle per la mobilità urbana. Già fare queste tre cose, che sono cose che riguardano le reti più in generale, alcune reti sono digitali, altre reti sono cose che richiedono investimenti invece molto fisici e molto che si possono toccare, ecco, questo potrebbe essere un esempio di usare i soldi che riceviamo una tantum per fare dei progetti una tantum, che altrimenti si rinviano sempre al futuro perché gli enti locali hanno i vincoli nelle spese, i governi sono sottoposti all'Europa, eccetera. Adesso siamo in una fase di sospensione di tutto ciò, cerchiamo di usare questi soldi proprio per andare oltre quei vincoli di bilancio che ci impediscono di che hanno impedito finora di progettare l'Italia di domani, dopodomani, tra 10 anni. Sì, sono d'accordo con lei. Un'ultima domanda, cioè utilizzare, appunto, visto che per anni abbiamo detto anche giustamente che i vincoli europei, il deficit sotto il 3%, il fiscal compact ci impedivano di fare un piano di investimenti, partiamo da quegli investimenti. Io vedo si continua a parlare di riforma fiscale. Mi preoccupo, non perché non sia un problema la tassazione IRPEF, magari spostarla più la tassazione non su chi fa lavoro, chi produce reddito, ma anche sui rentier. Però è chiaro che 2 punti percentuali servirebbero a poco, non li puoi finanziare con recovery e non vorrei che fosse così un modo per acquisire consenso di carattere elettorale. L'ultima cosa, siccome io delle regioni italiane mi fido fino a un certo punto sulla capacità di spendere questi soldi, lei ritiene che poi, una volta presentato il piano a gennaio, adesso tutto il coordinamento lo fa il ministro Amendola per il suo ruolo dei rapporti con l'Europa, ci debba essere un commissario tra virgolette nazionale, cioè, e non una distribuzione su base regionale? Ma sarebbe meglio, perché alcuni dei progetti riguardano, cioè l'importante è che non si deresponsabilizzino i destinatari di questi soldi, cioè se serve fare gli investimenti digitali al sud, è importante che le regioni del sud siano, le località nel sud siano coinvolte per poter fare le reti, diciamo, perché serve comunque l'intervento anche degli enti locali e magari anche un contributo da parte degli enti locali. Però ci vuole anche qualcuno che poi tiri le fila del tutto. Allora può essere il ministro che tiene i contatti con l'Europa, potrebbe essere anche una sorta di commissario che si dedica esattamente al recovery fund, in modo che possa essere considerato responsabile dell'attuazione specificamente di queste, certo, misure che dovrebbero portarci a migliorare le nostre possibilità di crescita. Allora, nel ringraziare il professor Daveri, do un'ultima notizia che non riguarda recovery, ma riguarda quanto era già previsto dal decreto rilancio, che è legge. Oggi sto presentando pari passo, lo ricordavo all'inizio del programma. Cosa vuol dire? Sono delle misure relative alle piccole e medie imprese che hanno subito una riduzione complessiva dei ricavi nei mesi di marzo e aprile pari almeno al 33% rispetto a marzo e aprile del 2019, e vanno a agevolare gli aumenti di capitale, anche quelli decisi già da maggio, entro il 31 dicembre 2020. Ci sono due gli elementi cardine: da un lato i crediti d'imposta pari al 20% fino a non oltre i 2 milioni di euro, è concesso a condizione, appunto, che l'aumento di capitale sia sottoscritto e versato entro il 31 dicembre 2020 e che gli investitori si impegnino a detenere la partecipazione nella società fino al 31 dicembre 2023. Poi, all'interno del Ministero dell'Economia e Finanze c'è un fondo da 4 miliardi di euro gestito da Invitalia, finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni entro il 31 dicembre di titoli di debito subordinati, che lo Stato è un cofinanziamento in cui lo Stato si impegna a sottoscrivere un debito subordinato, e poi però vale per i ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro e dipendenti sotto i 250, come ha ricordato oggi da Deborah Rosciani e Mauro Meazza nella trasmissione di Radio 24 Duli Denari Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro. È un prodotto, lo possiamo anche chiamare così, un prodotto innovativo che vogliamo testare per verificare quanto possa andare incontro alle esigenze delle imprese nel agevolare, rendere più semplice e meno costoso il fare aumenti di capitale, che in questo momento sono molto necessari per ripartire. Riguarda le imprese tra 5 e 50 milioni di fatturato che abbiano avuto un calo di fatturato in marzo-aprile superiore al 33%. Un credito d'imposta del 20% dell'aumento di capitale che viene effettuato, che va a beneficio di chi immette le nuove risorse nell'azienda. Poi c'è un credito d'imposta aggiuntivo che fino al 30% dell'aumento di capitale che viene fatto, che è a favore dell'impresa, l'impresa beneficiaria dell'aumento di capitale, e questa serve a coprire una parte delle perdite del 2020. E accanto a questi incentivi fiscali poi c'è la possibilità di accedere a un prestito subordinato a tassi molto vantaggiosi per un importo fino a 3 volte l'aumento di capitale. Le risorse sono stanziate per il credito d'imposta sono 2 miliardi e quelle per il prestito sono 4 miliardi. Noi pensiamo che siano più che capienti, probabilmente non saranno utilizzate tutte, abbiamo preferito tenere un margine per evitare click day o cose di questo tipo. Allora sì, va detto appunto che l'aumento di capitale viene fatto nelle piccole e medie imprese anche per sopperire a quello che è il calo del capitale dovuto probabilmente alla crisi, e appunto il fondo di 4 miliardi le potranno essere attivate le richieste dalle 12 di oggi, visto che sto pubblicato il modulo sul sito di Invitalia. Non è un click day, è chiarito il commissario Arcuri, non ci sono graduatorie. Verrà semplicemente verificato entro 10 giorni la domanda, poi potrà essere chiesta un'integrazione di 10 giorni, nel giro di 10 giorni le somme verranno erogate. Guardatelo con attenzione, perché insomma oggettivamente per le piccole e medie imprese che rientrano nelle categorie permette di avere di immettere capitale nella società con uno sconto forte e da un lato avere anche un contributo al finanziamento da parte dello Stato. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.